una notte nera. Non ci sono stelle nel cielo. Il mare è buio. E due cuori distanti sognano una vita diversa. Chissà cosa avrà in serbo per loro il destino. Guarda questo cielo, com'è strano, sopra questo mare nero come me, e le nuvole sembrano pensieri confusi e strani come me, e nei miei pensieri improvvisamente ho deciso di cercarti, amore mio, e ti scriverò poche parole, ma con amore che ti porti a me. E le mie parole attraverseranno questo mare nero, sperando che ti innamorerai di questo uomo che da lontano sta cercando te. Forte.